Eccoci qui alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan per la nostra intervista di oggi. Voglio salutare padre Samir Khalil Samir. Buongiorno padre Samir e benvenuto. Sandro, buongiorno a tutti. Allora, padre Samir, bisogna spiegare chi è: un gesuita, è molto ascoltato in Vaticano per quel che concerne il dialogo religioso, soprattutto con l'Islam, e è nato e cresciuto in Egitto, quell'Egitto duramente colpito anche di recente da Alessandro d'Egitto, dal Natale dei copti cristiani. Senta padre Savile, voglio iniziare con una provocazione. Se le chiedo cosa ne pensa di Oriana Fallaci, aveva ragione a dire che l'Islam ha un rapporto irrisolto con la violenza? Diciamo che questo è un aspetto che è sicuro, sia nel Corano che nella vita di Maometto c'è violenza, però nel contesto dell'Arabia e delle tribù di allora andava da sé, cioè il problema è che oggi i musulmani, anziché interpretare il Corano come ebrei cristiani interpretano la violenza che sta nella Bibbia, spesso una parte di loro la prende letteralmente e prende come modello. E siccome le campagne militari dei primi musulmani, dei primi califfi, hanno avuto grande successo per l'espansione dell'Islam, questa è una tentazione forte di prendere questo come modello. E a questo proposito, perché lei ha detto una parte di loro, come leggere gli atti anche avvenuti in Egitto di recente? Sono pochi fanatici che vanno contrastati oppure è un qualcosa che preoccupa? No, certamente è un pochi fanatici, non c'è dubbio. La popolazione, tradizionalmente c'era una buona intesa tra cristiani e musulmani, una convivenza reale, ma da alcuni decenni, diciamo dagli anni 70, la situazione si è un po' indurita a causa dei gruppi estremisti formati e esiliati in Arabia Saudita, spesso tornati in Egitto con Sadat, e che hanno cercato di islamizzare e talvolta anche con la violenza. Ma poi soprattutto nell'ultimo decennio c'è una discriminazione che esiste, direi quasi naturale, della maggioranza che limita la libertà, soprattutto la libertà religiosa. Discriminazione, le dice. Una discriminazione che può essere anche che si applica in certi mestieri che sono diventati vietati ai copti perché considerati come un po' che toccano la privacy dei musulmani, delle donne, eccetera. Ginecologia, per esempio, ma anche essere generale è impossibile a un copto. Quando arriva a un certo grado va si in deve pensione fermare anche a 50 anni. Senta, però le devo chiedere, il governo italiano vuole promuovere all'Unione Europea proprio una mozione, un dibattito parlando di persecuzione vera e propria dei cristiani, soprattutto in parti del mondo anche dove c'è l'Islam. Lei... Sì, ma io direi, da ciò che conosco, non si può parlare di persecuzione nel Medio Oriente, a parte il caso dell'Arabia Saudita che non perseguita ma non permette nulla. Lì c'è un'offesa ai diritti umani evidente, della quale nessuno parla perché abbiamo bisogno del loro petrolio e dei loro soldi. C'è un'ipocrisia in Occidente su questo. Ma laddove c'è persecuzione è paesi come il Pakistan, l'Afghanistan, in un certo modo c'è discriminazione certa in altri paesi, nel Sudan c'è stato persecuzione, ma si può dire, si deve dire anche c'è una vera persecuzione in Cina, nel Vietnam, in Corea del Nord, certo. Non è una cosa specifica del mondo islamico. Senta, ha sentito la massima autorità egiziana islamica dell'Università Al-Azhar, ha detto al pontefice, al Santo Padre, ha parlato anche di ingerenza quando ci sono stati dei commenti in affari interni egiziani. Qui il dialogo interreligioso. Io credo che che lui non ha sentito il discorso, almeno non trasmesso correttamente, perché ho riletto ancora stamattina tutto ciò che il Santo Padre ha detto il primo gennaio, che era a questa occasione che ha reagito. Non si può tirar nulla come ingerenza, c'è un appello anzi alla preghiera, al perdono, a non vendicarsi, e si dice che dobbiamo aiutare, ma non fa allusione a niente che possa essere politico, anzi dice le comunità cristiane dovrebbero aiutare i loro fratelli, insomma è una questione di solidarietà molto bella. E devo dire sì, che intanto in Egitto lo stesso El Tayyib, rettore dell'Università dell'Azhar, quello che ha fatto il discorso, ha promosso un movimento di solidarietà dei musulmani locali. La paura è per in Egitto che l'Europa si immisce negli affari politici, sì, e siccome non distinguono bene nel mondo islamico di solito tra politica e religione, il timore hanno avuto è questo, paura. Certo. Le chiedo per concludere, c'è chi dice sono fatti isolati da contrastare, e c'è chi teme, sempre per concludere con la questione Oriana Fallaci, attenzione perché poi arriveranno da noi, la dico così brutalmente. Sì. Lei teme questo? Teme? Dunque, è possibile, perché il progetto, questi fondamentalisti radicali hanno un progetto mondiale, non c'è dubbio, che comincia però con il mondo islamico, e questo da tempo. Il primo, l'attacco è contro gli stati musulmani che non sono veramente musulmani per loro. Questo è vero dell'Egitto, della Siria, di tanti paesi dove c'è un regime o laico o pro-occidentale. E dopo, ma possono cominciare da adesso, c'è di fatti in Europa una tendenza negli ultimi 25 anni a islamizzare la società in piccole cose, nell'aspetto esterno, nel fatto di fare delle moschee più imponenti, sì, con minareti, il fatto di far parlare durante il Ramadan, di esigere, di avere delle esigenze, delle pretese. Noi vogliamo carne halal, ma il Corano dice per esempio che la carne, il cibo degli ebrei, dei cristiani, è halal per voi, letteralmente sta nel Corano. Allora seguite questo principio e non esigete una cosa particolare. Lei dice c'è questo timore di esigenze maggiori, di esigenze sempre. Di esigenze per far entrare l'Islam nei costumi e nella vita quotidiana, che è il primo passo. Io, padre Samir, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei e a voi tutti. Padre Samir Khalil Samir, voglio ricordare, egiziano di nascita, è cresciuto al Cairo, insegna anche al Pontificio Istituto Orientale, ascoltato in Vaticano, uno dei consulenti del Vaticano per i rapporti interreligiosi e di dialogo con l'Islam in particolare. Allora, ci fermiamo, pubblicità e meteo, poi parliamo di unità nazionale, il tricolore, l'Italia. L'Italia, 150 anni dell'unità d'Italia, è un valore che sentite, io più, con più enfasi di così non potevo farvelo sentire, ma lo sentite questo valore per cui bisogna celebrare, per cui bisogna festeggiare, per cui bisogna ricordare? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, ma questo è il tema del nostro sondaggio, votate su radio24.it come state già facendo, e tra un attimo ne parliamo. 24 mattino. Allora, state già votando in tantissimi il nostro sondaggio. Il tema è l'unità d'Italia, i 150 anni dell'unità d'Italia, le celebrazioni. Quello che vi chiediamo è: voi sentite questo valore, il valore dell'unità italiana, e siete divisi, proprio il 50% dice di sì, il 50% dice di no, ma questo è il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. bianco o nero? Esattamente spaccati a metà. Comunque, i vostri messaggi al 349-238-6666 e invece, se volete intervenire in diretta, 800-24-0024. Intanto ne vogliamo parlare con uno storico, insegna storia del giornalismo alla LUMSA di Roma, è stato professore di storia dell'Europa a Torino. Professor Nicola Tranfaglia, buongiorno professore. Buongiorno. Così come voglio salutare il sindaco di Treviso della Lega e segretario della Lega Veneto, Giampaolo Gobbo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, al professore e a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto sindaco e professore, voglio farvi ascoltare quello che ha detto tra le varie cose il capo dello Stato Napolitano. Era chiaramente rivolto, anche se non la citava, alla Lega. Sentiamo Napolitano. A forze politiche che hanno un significativo ruolo di rappresentanza democratica sul piano nazionale e lo hanno in misura rilevante in una parte del Paese, vorrei dire che il ritrarsi o il trattenere le istituzioni dall'impegno per il 150enario non giova a nessuno. Sindaco Gobbo, sentito, non giova a nessuno. A Treviso perché non si festeggia? Ma allora, festeggiare è una parola, celebrare potrebbe essere un'altra. Allora perché non si celebra? Il festeggiamento è il discorso di dire quanto felice sono di questa situazione e oggi i cittadini, e lei mi dà anche un conforto notevole quando mi dice che 50% è a favore e 50% è contrario, quindi già qua mi sento abbastanza, diciamo, convinto delle mie tesi. Io credo che non sia comunque un discorso, non possiamo fare un revisionismo storico, ma possiamo però chiarire e verificare come è nato questo Stato, al di là di tutte le ipocrisie e di tutte le situazioni che sono avvenute. Noi sull'unità non possiamo contestarla assolutamente, sarebbe sciocco ovviamente dopo tantissimi anni, ma io voglio ricordare che già dall'unità, dal primo, diciamo dalla prima logica, parlo anche del Cattaneo, prima ancora quindi dell'unità, ma parlo poi anche del Minghetti che proprio chiaramente attraverso appunto la richiesta anche del Cavour cercava di portare, diciamo, ad un regno a quel tempo che fosse nelle logiche delle diverse identità storiche. Quindi... per una vera autonomia, come del resto i costituzionalisti dice, nella Costituzione del 48. Non la contestiamo, ma neanche stiamo qui proprio a dire che è una roba da celebrare, ecco, questo è il sunto. Ma soprattutto in un momento come questo e soprattutto in una situazione dove purtroppo vede una divisione netta fra uno Stato burocratico accentratore e uno Stato invece che rispetta le regole e che, tra parentesi, produce il 70 e oltre il percento di prodotto interno lordo. Anche se, poi voglio dal professor Tranfaglia, il sindaco Tosi di Verona dice festeggerò, il suo vice sindaco Gentilini, che è stato anche sindaco a Treviso, dice io, tricolore in mano, sfilerò, insomma... Gobbo, anche il vice sindaco Gentilini sfilerà e dice sì, cappello d'alpino in testa. Ma questo non è un problema, io ho fatto anch'io il militare al 4° Corpo d'Armata Alpino di Bolzano e quindi non ho nemmeno io questo problema, cioè la logica esiste ed esiste senza nessun ombra di dubbio. Io ho un avo che è mio nonno, che si chiama come me, si chiamava come me, cioè da cui io prendo nome, che è un invalido di guerra con tanto di croce di guerra al merito, ferito sia da arma da taglio sia da arma da fuoco. Ho uno zio partigiano, mio zio Eugenio Loschi, che è stato imprigionato e che ha combattuto e che ha la croce di guerra come partigiano combattente. E poi ho un altro zio, tra parentesi, da parte di padre, che è stato imprigionato perché... E non sente che dovrebbe celebrare anche queste persone che hanno combattuto? Sì, ma vede, ma è proprio su questo, La Costituzione prevedeva... le regioni, dopo lo Statuto Albertino, si è portato a un concetto molto, molto intelligente e molto profondo della situazione, cioè il cosiddetto regionalismo, le varie autonomie regionali. Le regioni sono state inserite in un contesto che arriva 20 anni dopo e non con l'autonomia cui i costituenti si riferivano, ma anzi come scarica, diciamo, barile per tutti coloro che i partiti storici non riuscivano a mandare a Roma. Sì, ma e quindi hanno creato questa situazione. Ma bisogna capire perché debbano confliggere le due cose, però me lo fa chiedere al professor Tranfaglia, che così voglio sentire. Professore, senta, quelle della Lega sono istanze di chi guarda anche alle spinte per il federalismo all'oggi, oppure sono istanze anche che hanno una certa razio, secondo lei? Ma guardi, secondo me bisogna nettamente distinguere tra quelle che sono aspirazioni all'attuazione di una Repubblica che porti alle sue giuste conseguenze quello che c'è già nella nostra Costituzione, cioè le autonomie locali e regionali sulle quali non solo Cattaneo, ma anche tanti di noi sono d'accordo da sempre. Io sono stato uno studioso di un pensatore come Giuseppe Ferrari, che era un federalista convinto nell'Ottocento, amico di Cattaneo, e quella che invece è l'atteggiamento rispetto agli organi dello Stato, in modo particolare al Capo dello Stato, che ha ricordato giustamente nei suoi discorsi la necessità di un atteggiamento diverso e rispettoso della Costituzione ai ministri di Stato. E secondo lei c'è, oppure quello della Lega è questo rispetto, voglio dire, oppure da parte della Lega no? Come, non ho capito? Da parte della Lega c'è, secondo lei, questo rispetto, oppure no? A mio avviso, sentendo quello che ha dichiarato Umberto Bossi, il loro leader, che non si può festeggiare il 150enario se non passa un decreto sul federalismo, questo non è accettabile, perché una cosa sono le leggi dello Stato e un'altra cosa è l'atteggiamento rispetto ai 150 anni in cui abbiamo vissuto insieme. Tra l'altro io voglio ricordare, detto che è salita al 52%, quindi stanno continuando a votare su Radio24.it, i no, quelli che non sentono un valore nell'unità nazionale, sono saliti al 52%, dunque sindaco Gobbo, un pochino, sarà qualche leghista, non lo so, qualcuno che ha votato e stanno votando. Voglio ricordare anche che Radio 24 da oggi proprio è partita con un'iniziativa per ricordare i 150 anni dell'unità, sotto forma di un notiziario, proprio un racconto dei fatti della storia risorgimentale, che vengono raccontati proprio come se fosse un notiziario radiofonico. Vi ricordo alle 6:50 del mattino, e se non siete mattinieri alle 12:10, dopo il giornale delle 12 lo ripetiamo. Intanto voglio salutare il signor Michele Maddalena, che ci sta ascoltando. Maddalena, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è un professore di radiotecnica, è sì. In pensione, è di è Formia. Pensione, ahimè, sì. Ahimè, perché vuole? Vabbè, insomma, pensione vuol dire essere finiti, no? Ma no, che finiti? Se la sarà guadagnata. Comunque lei, per non sentirsi finito, che fa da 2 mesi? Che fa da un po' di tempo? Io da 10 anni, no? Da 2 mesi che cammino, metto a disposizione le mie gambe per la solidarietà. Cammina, però da un po' di tempo lo fa per che cosa? Dal 3 di novembre sto camminando per l'Unità d'Italia. Per l'Unità d'Italia, cioè che fa? Cammino, vado da un paese all'altro, porto un messaggio e porto una pergamena, un messaggio in pergamena da far sottoscrivere ai governatori delle regioni. Ah, cioè lei va, da dove è partito? Sono partito da Trieste. Da Trieste. E quanti chilometri ha fatto? Sto lasciando Altamura e ho fatto 1900 chilometri. Tutti a piedi, 1900 chilometri. Tutti a piedi, ovviamente. Sì, certo. Scusi, io 1900 chilometri a piedi non è che li butto giù così, ecco. Non ho una scorta, quindi non posso appoggiare a nessuno, soltanto al Padre Eterno. E quindi lei porta, diciamo, per l'Unità d'Italia, cioè sì. come l'accolgono? Bene, spero. Insomma. A Treviso da pezzo da piedi. No, come a Treviso? C'è qui il sindaco, Gobbo, come? Buongiorno, signor sindaco, dove era? Quando sono arrivato? Ma io non sono neanche stato informato, e io comunque di questo io apprezzo, come mancherebbe altro, non è questo, cioè io capisco benissimo la cosa, ma vedete, di queste cose bisognerebbe anche parlarne un po' più chiaramente, perché altrimenti si rimane in una posizione così di tifo, dove vediamo che la bandiera e l'inno vengono suonati durante le nazionali o per altre cose. Adesso non è questione che sia troppo tardi, perché se lei mi dice del 52% che dice e di questo, è il 53, è salito il 53. Ma vede, perché bisogna capire che tutti gli scienziati, gli studiosi, eccetera, non debbono studiare solo ed esclusivamente su quella che è stata la storia, eccetera, ma devono sentire il popolo, cioè il sentimento che esiste. Ho capito, vede, però sindaco, guardi, io se lei mi dice c'è anche molta in queste celebrazioni, ci sarà sicuramente molta retorica, sicuramente magari non è quella retorica che ti mette lì di buon animo, che ti fa un pochino di retorica, cioè, però che vuol dire, cioè che c'entra? Puntiamo al federalismo, e per questo se non c'è il federalismo non si celebra l'Unità d'Italia. Sono due cose diverse, cioè celebrare i 150 anni, l'Unità d'Italia, da dove veniamo, come abbiamo costruito questa nazione, è un qualcosa di... No, non crede che esuli dal fatto delle lotte politiche che uno vuol portare avanti. Legittime. No, dimmi, oh mamma, che cosa? Mi permetta. Allora, il capo dello Stato parla appunto anche di storia. E giustamente il Presidente dice che anche Milano, Venezia e Verona sappiano come sono arrivate in Italia. A prescindere da Milano, che effettivamente nel 61 la Lombardia c'era in Italia, ma il Veneto, ad esempio, nel 61 non era in Italia, è arrivato nel 66 con un referendum truffa. Vabbè, quindi celebrerete tra 4 anni, no? Tra 5 esatto, anni. Se ci sarà da celebrare, se ci sarà un'Italia federale, allora questo sarà una cosa... No, io intendevo celebrerete il fatto che siete entrati nell'Italia. No. Beh, guardi che la Chiesa, lei sa quando ha riconosciuto lo Stato italiano la Chiesa? Qualche anno dopo, sì. Ah, certo. Qualche anno nel 1929. Vabbè. Guardi, quando vuole facciamo un dibattito, ma non così per telefono. Va bene, allora intanto mi faccia fermare che devo dare le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire dal professor Tranfaglia, voglio tornare anche dal nostro professore Michele Maddalena, che cammina per l'Unità d'Italia, perché insomma a Treviso e comunque pare anche in Veneto non è stato accolto come voleva. Tra un attimo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, sentite il valore dell'unità nazionale, 800240024. Voglio chiederlo a Paolo da Latina, che ci ha chiamato. Paolo, buongiorno. Paolo. Ah, buongiorno. Dica, lei lo sente il valore dell'unità? Poco. Comunque, volevo dire che mi sembra assurdo quello che dicono il sindaco di Treviso, anche altri suoi colleghi. Perché? Ma perché io ho 64 anni e sono nato appena sorta la Repubblica, e sono nato con certi valori, e poi ho fatto un lavoro di operatore turistico, di organizzatore di congressi. Ho viaggiato l'Italia in lungo e per largo, l'ho venduta, l'ho presentata all'estero. E quindi oggi sentire loro parlare, non celebrazioni, non qua, quando loro si vestono e fanno certe carnevalate, e il fazzolettino verde, si vestono con le corna sulla testa, è una cosa, guardi... Nemmeno vale la pena discutere. Addirittura. Grazie. Vale la pena. Grazie. Michele da Monza, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io ho un'opinione un po' opposta, nel senso che la celebrazione dell'unità nazionale mi dà un senso quasi di fastidio. Vorrei dire, apprezzo una lingua unica, però in questo momento, appunto, per me l'unità nazionale mi fa venire in mente che molte delle tasse che pago, e garantisco che non è che navighi nell'oro, servono per mantenere una parte del paese a cui, se non fossi unito, forse potrei avere qualche soldo in più per la mia famiglia. Oh, grazie Michele. Professor Tranfaglia, la posizione di Michele è una posizione che lei come giudica? Cioè le divisioni, la questione dell'unità d'Italia per me vuol dire pagare le tasse, mantenere un sud, io dico una parte d'Italia, intendeva il sud Michele, immagino, che non vorrei mantenere. Guardi, a me pare che si confonda il giudizio sulla situazione politica italiana, che è sicuramente una situazione di crisi e di difficoltà, con l'atteggiamento da avere rispetto alla nostra storia. Quindi mi sembra una confusione. Io non sono affatto contento della situazione che stiamo vivendo, ma questo non mi impedisce di tener conto del valore storico e civile di quella che è stata l'unificazione 150 anni fa. Le due cose non possono essere messe sullo stesso piano. Quindi lei dice, un po' come dicevo io, cioè un conto sono le legittime battaglie per il federalismo, anche lamentarsi, certo, perché il paese magari è diviso, perché il paese non è quello che avremmo voluto, però questo non vuol dire niente, cioè i 150 anni sono un fatto storico, non contestabile, molto importante. Sentiamo Michele Maddalena. Maddalena, allora, sentito, il sindaco di Treviso non sapeva neanche che lei andava a Treviso, insomma, evidentemente non l'avevano. Ma come? Questo non mi meraviglia. Vabbè, insomma, adesso non lo sapeva. Ecco, no, magari... allora, non lo sapeva né il sindaco di Treviso né lo sa il sindaco di Palermo. Anche sindaco, a Palermo. Giustamente, mica stanno lì a ricevere la posta, no? C'è la segreteria che riceve. Ah, ma sì, ma c'è tempo, lo metterò io e poi mi scordo, e poi la scusa, non è arrivato nulla. Vabbè, comunque andiamo oltre. Cioè, ma lei dov'è che è stato accolto meglio e dove peggio? Mi dica. Allora, innanzitutto devo smentire che in Veneto non mi hanno accolto bene. L'hanno accolta bene in Veneto. Sono stato accolto in un modo entusiastico. Bene. Però quindi, tranne le autorità. Tranne le autorità, esatto. cioè la gente l'ha accolta bene, ma le autorità più o meno assenti su tutta la linea. Adesso se l'abbiano fatta perché effettivamente non sapessero nulla o perché fatti loro, a me non interessa. Io porto il messaggio, chi se la sente lo sottoscrive, chi non se la sente abbia il coraggio civile di uscire allo scoperto e non di mandare le donne avanti a dire lei sarà denunciato perché ha messo lo stemma del Veneto su una pergamena. Ma che la vuol denunciare? Non ho capito. La Regione Veneto. Ah, la vogliono proprio denunciare. Carissimo governatore del Veneto, sto aspettando la denuncia. Ah, il governatore Zaia, sta aspettando una denuncia, addirittura l'hanno denunciata, cioè vogliono denunciarla. Ma lei che messaggio porta? Cioè arriva in una città, va dall'autorità che la vuole ricevere e che dice a questa autorità? Sono stati ben avvisati. Allora, il messaggio è semplice. Molto semplice, si auspica un'Italia una, indivisibile, libera e democratica, con una sola bandiera, il tricolore, e una sola capitale, Roma. Ah, ecco. Perché la dice la Costituzione italiana. Questo è il messaggio che lei porta. E questo messaggio, sindaco Gobbo, lei non so se è un messaggio che, al di là del fatto che lei non l'ha ricevuto, la Regione Veneto ha detto che vuole. Ma allora, non so, questo signore, per carità, nella sua enfasi, mi piace proprio perché ma è quello di venire allo scoperto. Io penso e parlo del sentimento nazionale come nazione che ognuno ha. Lo Stato poi è un'altra cosa. Se pensiamo poi alla Prima Guerra Mondiale, all'interventismo, vede, c'è un battaglione che non viene mai, questa storia non viene mai detta, si trova solo nelle pieghe della storia, che era il battaglione Catanzaro, quindi si capisce da questi giovani da dove venivano, che sono stati decimati sul fronte del Carso dai savoiardi, naturalmente. Perché questi dicevano: ma dove vado io, contro chi combatto, per cosa combatto? Noi sappiamo che l'interventismo, come del resto in Libia nel 1911, per creare questa potenza imperiale che stava nascendo, come è nata del resto la Germania dal 48, diciamo, ecco, ma la Germania in un senso con più profonda logica anche popolare. Qua invece di popolare c'era molto molto ben poco. E se ricordo quello che è la Serenissima, la Repubblica Serenissima, che lei è quella che ha battuto moneta per 10 secoli, e che ha per prima individuato la logica dell'Europa nel senso dell'individuazione fra potere diciamo temporale e potere religioso, lo Stato a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Lei è lì che è un po' di nostalgia, c'era. No, assolutamente, no, non è una nostalgia, assolutamente è una realtà storica sì. che non si vuole vedere. Però sindaco, allora io devo concludere, mi faccio un regalo, l'ascolti con me, così insomma l'ascolti. Mi dica cosa le suscita, cos'è per lei l'inno d'Italia, punto. Sì, parla con me. Sì, cosa le suscita? Niente. Ma il ricordo del militare, tantissime cose, qualche campionato di rugby, quando si vince, e noi qua siamo anche abituati, ma vede, non è su questo, non siamo contro assolutamente no, quello che è il discorso, ma vede, l'Italia divisa in questo senso, c'è. Perché? Perché c'è una parte, cioè lei capisce che circa 60 milioni di abitanti non possono permettersi 4 milioni e mezzo di statali, con tutto rispetto per gli statali. No, ma va bene, sindaco, però mi devo fermare. Realtà, ma ho capito, ma io mi devo fermare, altrimenti poi sforo, ma vengo a fare il dibattito storico, cioè vengo ad ascoltare le sue posizioni. Quando lei vuole, allora mi devo fermare con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, ringrazio tutti gli ospiti ovviamente e do la linea. Oh! Finalmente a Oscar Giannino, la prima volta nel 2011. A domani.